se, ahora non ci sta sentendo vedendo più nessuno, Florenza, ora non è nadie, ok, non ti escucho nada, non ti escucho nada, però non è stata, tenemos a altri che lo stanno escuchando, hacemos un ciao a todas las personas que nos han escuchado e un ciao a Diego Armando Maradona. Dale. Somos feministas y te queremos. Ciao a todos los que nos... Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Flo. Ciao, linda. Este programa fue presentado por Radio Caso.